giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'inflazione pesa sempre di più nel potere d'acquisto delle famiglie, costrette a ridurre le spese anche nei pur vantaggiosi mercati. A confermarlo, i venditori ambulanti, costretti a limitare i rincari per arginare il calo dei consumi. Borgo Stazione a Udine contesa dalle bande dello spaccio alla causa dell'ennesima rissa. Domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Vertenza Flex, questo pomeriggio a Roma l'incontro decisivo. Stop a 72 contratti interinali e 48 uscite volontarie tra i punti dell'accordo. Maxi operazione nel mondo della siderurgia. Il gruppo svizzero Trasteel, che già controlla in regione il laminatoio di San Giorgio di Nogaro, acquisisce la Profilmec con un impianto a Sesto alla Reghena, 300 in totale gli occupati. A Udine aprono 7 ambulatori di quartiere, funzioneranno a rotazione e vi opereranno infermieri e assistenti sociali con servizi di supporto ad anziani e a chi ha meno competenze informatiche. I risvolti economici di Nova Gorizia e Gorizia, capitale europea della cultura 2025, in un forum italo-sloveno per promuovere il dialogo transfrontaliero. Associarsi per autoprodurre e condividere le rinnovabili, prime comunità energetiche in regione per fronteggiare le bollette alle stelle. Questa sera la presentazione dell'iniziativa a Cormons. Sport, calcio, allo Stadio Friuli il Monza batte l'Udinese per 3-2 e la elimina dalla Coppa Italia. Si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi per la squadra di Sottil. In Serie C il Padova sconfigge al Rocco, una Triestina ancora in grave crisi, per 2-0. Gli alabardati però si sono difesi al meglio. Questo pomeriggio in campo il Pordenone contro il Trento. Una buona giornata da Daniele Lettig e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa prima edizione del nostro giornale radio. Prima di entrare nel vivo delle notizie, subito uno sguardo al meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Le temperature registrate poco fa a Trieste 17,5 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 21 gradi, a Gorizia 13,5 gradi, a Udine e Pordenone 12, a Tolmezzo 11,5, a Tarvisio 10, a Forni di Sopra 9. Su Piancavallo 7,5 gradi, a Sappada 5,5, sul Monte Zoncolan 7,5, sul Monte Lussari 6, a Grado e Lignano 18 gradi, la temperatura del mare è di 20,5 gradi. Ed ecco le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo da poco nuvoloso a variabile, specie nella seconda parte della giornata e sulla zona montana. Sulla costa di notte e di mattina soffia Raborino, poi venti deboli variabili. Consumi in calo e prezzi che tra le bancarelle più che altrove devono restare bassi, così anche i mercati urbani, specchio della società, soffrono il difficile momento economico. Da Pordenone, una delle piazze più importanti del nord-est, il principale sindacato degli ambulanti stima una contrazione media delle vendite tra il 20 e il 25% e gli acquirenti confermano. Tutto aumentato. Rinuncia a qualcosa? Certo, tutto. La carne ogni tanto. Il pesce lo lasciamo al mare, mangi giusto, quello proprio per non morire. Tra inflazione e ridotto potere d'acquisto si compra di meno anche al mercato, lo confermano i venditori ambulanti costretti a limitare i rincari per arginare il calo dei consumi. Quella di Aladino Bortolan è una delle bancarelle storiche del mercato di Pordenone. La gente compra meno e è un po' preoccupata. Di quanto calate le vendite? Un 30% su per giù. Riguardo ai prezzi? I prezzi mantenuti gli stessi, perché se no non riusciamo a far vendita. Però comunque la gente fa fatica a spendere. Non ha liquidi in portafoglio. Non parlo dei 50 euro, parlo dei 5 euro. Il GOIA, principale sindacato degli ambulanti, stima una contrazione media delle vendite tra il 20 e il 25%. Il caro vita si sente e sta cambiando le abitudini dei consumatori anche nella grande distribuzione e negli esercizi pubblici. Sono andata con mio marito in ferie, ho trovato dei prezzi esorbitanti e in generale ho trovato un aumento abbastanza consistente. Come si fa ad andare avanti così? Bisogna rinunciare. Egidio Viol, titolare di supermercato associato a un grande marchio. Abbiamo cercato di contenere il più possibile l'aumento dei prezzi. Il carrello è cambiato? È più leggero, la clientela è diventata molto più attenta alle promozioni. La nostra linea di prodotti S-Budget, che è quella tra virgolette più conveniente, ha fatto un incremento notevole a due cifre negli ultimi periodi. Invece di comprare, non so, due confezioni, ne compra una e torna magari dopo qualche giorno a comprarne un'altra. Non rinuncia alla qualità, preferisce una bistecca in meno, però vuole mangiarla buona. Federico Mariutti, vicepresidente dei ristoratori aderenti a FIPE Confcommercio di Pordenone. Sta iniziando un calo dell'affluenza, sta cambiando la scelta di cosa mangiare, si stanno vendendo molti più primi piatti anziché i secondi piatti, perché hanno ovviamente un costo minore. Questo va ad incidere poi sui nostri incassi giornalieri. Il nostro ultimo obiettivo comunque è quello di aumentare i prezzi. A fronte di un'inflazione italiana intorno al 9%, noi stiamo contenendo intorno al 5% l'aumento dei nostri listini. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Ora ci spostiamo a Udine, dove c'è un forte disagio dei residenti di Borgo Stazione per l'ennesima rissa in cui 2 giorni fa è rimasto ferito un vigile urbano intervenuto per riportare alla calma una zona calda contesa dalle bande dello spaccio. Sarà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato per venerdì, a stabilire il da farsi sulla situazione in via Leopardi e dintorni. Qui si spaccia, lo sanno tutti, e proprio per una contesa territoriale tra 2 gruppi diversi che includono pakistani e afghani sarebbe scoppiata la rissa con tanto di macete di martedì pomeriggio. Un denunciato e 4 manette, tutti con precedenti, per loro la procura chiede la convalida dell'arresto. Lievemente ferito un vigile urbano intervenuto. È stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. L'ultima lite violenta, domenica, un bar si è ritrovato col vetro rotto. Il tempo che abbiamo chiamato la polizia sono già venuti qua davanti, hanno cominciato a volare dei sassi per terra, bottiglie, quello che trovavano in mano. Hanno preso uno, gli altri sono scappati via. Per residenti e commercianti della zona il degrado è andato via via peggiorando. Lei abita qua? Sopra, piano. Un giorno in terrazzo, e guardo, c'era uno che ha tirato fuori il coltello così. Paola, sì, tanto paura. Tutto fuori motilia così, paura, sì. Non sono bastati come deterrente l'apertura di un presidio di polizia locale e l'installazione di telecamere, che pure hanno ripreso i fatti di martedì. Sconsolato il comandante dei vigili, Eros Del Longo. Le leggi attuali non ci consentono di riuscire a fermare questi fenomeni. Non ci sono. Li fermiamo, li arrestiamo, li portiamo in questura, li identifichiamo, il giorno dopo sono fuori di nuovo. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, fa appello alle autorità di pubblica sicurezza e alla magistratura. DASPO, chiusura locale, ci sono delle norme che ci permettono di intervenire, bisogna utilizzarle di più, bisogna essere più determinati, perché purtroppo la situazione è preoccupante. La prefettura farà da coordinamento per trovare soluzioni al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il prefetto Massimo Marchesiello. Sicuramente è già immaginato un intervento interforze a tenaglia, quindi per fare degli interventi molto più operativi e più complessivi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il bonus 110% ha svelato più di una truffa. Ora le associazioni di consumatori hanno messo a punto un vademecum per chi è rimasto vittima degli impresari disonesti. Sulle truffe compiute con il bonus 110 qualcosa si sta muovendo e stavolta va a tutela dei contribuenti, soprattutto di quelli ingannati da imprese e società senza scrupoli che hanno approfittato degli incentivi del governo per accaparrarsi crediti non dovuti. Il trucco era semplice: la società convinceva le sue vittime a fare dei lavori e queste chiedevano il bonus governativo. A quel punto la società stessa, con l'aiuto di commercialisti complici, si faceva girare il loro credito fiscale all'insaputa delle vittime stesse e i lavori non venivano nemmeno fatti. Per i cittadini truffati, oltre all'inganno, c'era anche la beffa e finivano nel mirino dell'Agenzia delle Entrate, la quale, dopo aver appurato che i crediti per il bonus erano stati erogati a vuoto, ne pretendeva la restituzione insieme a una multa salata. Grazie all'azione di associazioni come Consumatori Attivi e Consumerismo No Profit, qualcosa sta cambiando. La loro battaglia per la tutela dei truffati, che ha coinvolto anche alcuni parlamentari della regione, ha portato un'apertura. È la circolare 33 dell'Agenzia delle Entrate. Alle vittime di queste truffe, si dice nel documento, sarà concessa una sorta di grazia se denunciano subito l'imbroglio. Esther Soramele, Consumatori Attivi. Questa circolare dimostra che quel grido di dolore è stato ascoltato dove doveva essere ascoltato, quindi è arrivato al fisco. Non solo, sarà anche possibile fare una nuova domanda per il bonus, anche se la scadenza fine lavori è ormai vicina e restano soltanto 2 mesi per fare tutto. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Cronaca giudiziaria. La Procura Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Assise di Trieste che nel maggio scorso aveva decretato la non imputabilità per vizio totale di mente di Alessandro Augusto Meran, il domenicano che il 4 ottobre del 2019 uccise nella questura di Trieste gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego. Nell'atto sono indicate carenze e contraddizioni e viene chiesta una nuova perizia da affidare a un collegio di 3 luminari in materia per valutare sia le condizioni psichiche dell'imputato sia le conclusioni raggiunte da tutti i consulenti e periti che hanno operato finora. L'unico modo, sarebbe questo l'unico modo, si legge nell'atto di impugnazione, per sollevare le molte nebbie che ancora presenta questo drammatico caso in relazione alla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Alle 7:28 passiamo alla pagina dell'economia. Questo pomeriggio al Mise di Roma, incontro decisivo sulla vertenza Flex, lo stabilimento di materiali elettronici di Trieste che a maggio è stato interessato da un drastico piano di ridimensionamento. All'incontro parteciperanno azienda, regione e sindacati. I termini dell'accordo erano stati annunciati 20 giorni fa, 48 uscite volontarie, mancato rinnovo di 72 contratti interinali e il supporto di Invitalia, agenzia del Ministero dell'Economia e Finanza, allo stabilimento che non verrà dismesso. Lo spettro della delocalizzazione però non scompare. La multinazionale statunitense proprietaria infatti punterebbe sul sito romeno di Timișoara. Maxi operazione nel mondo della siderurgia. Il gruppo Trasteel, che già controlla in regione il laminatoio di San Giorgio di Nogaro, ha acquistato la Profilmec con un impianto a Sesto al Reghena che produce tubi d'acciaio. Tra i due stabilimenti sono impiegati 300 lavoratori. L'obiettivo della Svizzera Trasteel, che nel sito di San Giorgio di Nogaro trasforma le bramme in lamiere di acciaio e nell'appena acquisito stabilimento della Profilmec a Sesto al Reghena continuerà a produrre dai coil tubi di acciaio saldati di svariate sezioni per i settori più disparati, è quello di trasformare gli acciai con le lavorazioni a freddo, produzioni dal valore aggiunto importante e meno impattanti per l'ambiente, che devono comunque rifornirsi di materia prima. L'invasione russa dell'Ucraina ha interrotto un flusso importante di approvvigionamento e gli operatori più esperti sono riusciti a trovare fornitori alternativi in tempi brevi, ci spiega l'amministratore delegato di Trasteel Gianfranco Imperato. A San Giorgio di Nogaro abbiamo dovuto sostituire un fornitore strategico come la Metinvest, guarda caso proprio il famoso impianto di Azovstal, quello oggetto di tante tristi immagini, con una serie di fornitori, chiamiamoli overseas, India, Indonesia, Brasile, e questa operazione ha forse messo in luce, senza vantarci troppo, ma il beneficio di avere un trader come azionista, perché siamo stati abbastanza rapidi in questa transizione. A Sesto al Reghena il nostro fornitore di riferimento è invece un fornitore domestico, il gruppo Arvedi. La pandemia prima e la guerra poi hanno causato fortissime oscillazioni nei prezzi. Per chi trasforma l'acciaio, se non si specula, si ha sempre una differenza tra la propria materia prima e il proprio prodotto finito che è gestibile. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Adesso torniamo a Udine per l'apertura dei primi ambulatori di quartieri, punti di supporto per la popolazione dove si potrà trovare assistenza sul piano non solo sanitario ma anche sociale. Aprono a Udine 7 nuovi ambulatori di quartiere nella prima fascia periferica. Quello di Cussignacco, inaugurato per primo, terrà aperto il mercoledì mattina, quello di Leipacco il martedì mattina e così via, uno al giorno a rotazione. Infermieri, ma anche assistenti sociali, forniranno supporto ad anziani, a chi ha meno competenze informatiche, si pensi alle prenotazioni di visite per esempio, e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Eleonora Pagnotta, assistente sociale, ambito Friuli Centrale. C'è sempre più necessità di avere delle realtà a livello proprio di quartiere come supporto, nel senso che tanti servizi sono stati magari centralizzati e gli anziani hanno molta più difficoltà comunque a raggiungerli. Amanda Petruzzi, infermiera della Croce Rossa. Offriremo servizi di base quali misurazione parametri vitali, terapia con iniezioni sottocutanee, intramuscolo e anche educazione sanitaria per accompagnare il paziente nel percorso terapeutico. A Cussignacco negli anni 80 l'aiuto era fornito da una suora infermiera, poi ci si è affidati ai volontari fino allo stop dovuto alla pandemia. Ora il servizio di prossimità è stato riattivato grazie a figure professionali e al sostegno delle associazioni di volontariato. Cristina Ceruti, presidente della Croce Rossa Comitato Udine. Questo momento storico ha creato differenze sociali importanti, per cui si sono create ulteriori fragilità sul territorio. Ecco che questi luoghi, intesi come luoghi sicuri, possono essere un sito dove la popolazione possa arrivare per trovare appunto anche quella parola in più che probabilmente in altri luoghi non è possibile trovare. Giovanni Barillari, assessore alla sanità e all'assistenza sociale di Udine. È stato reso possibile grazie alla generosità dei cittadini udinesi che hanno donato loro 5 per 1000 al comune. Io credo che questo sia il modo migliore per poter rendere ai cittadini sotto forma di servizio quella che è stata la loro generosità. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sui progetti per Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025, serve una decisa accelerazione, è quanto è emerso da un incontro bilaterale che si è tenuto a Nova Gorizia organizzato dal forum italo-sloveno. A poco più di 2 anni dal traguardo, la già complessa macchina organizzativa per la capitale della cultura 2025 vede affiancarsi un nuovo ente di coordinamento costituito dalla Slovenia per ottemperare alle pervasive procedure di gestione dei fondi. La struttura, denominata Javni Zavod, ente pubblico Go 2025, lavorerà in partnership con il gruppo europeo di cooperazione territoriale, creando così un dualismo parallelo a quello dei due stati. Il direttore di Javni Zavod Go 2025, Goraz Bosic. I fondi Interreg saranno 7 milioni. I fondi che avremo a disposizione per il programma del Bitbook sono per adesso 15 milioni, ma cerchiamo di trovarne altri 5 nel nostro piano. Cerchiamo i fondi europei senza frontiere e borderless. L'ambasciatore italiano presso la Repubblica di Slovenia, Carlo Campanile. Il progetto Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025, offre un'opportunità di sviluppo straordinaria in un'area che forse nell'economia regionale e nazionale italiana e in quella slovena, il cui potenziale non è ancora del tutto sfruttato. Ma dopo le problematiche emerse sul fronte architettonico alla piazza Transalpina, nessuno sembra farsi illusioni sulle tempistiche. Chiara Canzoneri di Confcommercio. Io penso che in questo momento non abbiamo tempo di pensare a quello che non è stato fatto, ma è il momento di pensare a quello che dobbiamo fare, probabilmente più velocemente del previsto. Con il gruppo Confcommercio sicuramente stiamo già organizzando dei tavoli di lavoro operativi, stiamo pensando a dei corsi di lingue, a dei corsi anche legati all'accoglienza e a tutto quello che gira intorno al turismo. Il direttore di Confartigianato Gorizia, Marco Gobbo. Io penso che in questa occasione il nostro comparto possa pensare di portare come contributo il racconto delle radici produttive di un territorio, ossia la cultura d'impresa. Significa portare i giovani a sentire maestri artigiani, persone che hanno un loro fascino, che possono raccontare la storia del nostro territorio, può contribuire a creare nuovi posti di lavoro e nuove vocazioni imprenditoriali. Nova Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Una delle soluzioni per far fronte all'impennata dei prezzi dell'energia e aiutare a contrastare il cambiamento climatico è la creazione di comunità energetiche rinnovabili, grazie alle quali famiglie, imprese e istituzioni possono collaborare per produrre insieme elettricità verde per alimentare le proprie attività quotidiane. Legambiente presenta questo pomeriggio, nella sala civica di Cormons, l'evento di lancio della comunità energetica cormonese. La presidente del circolo goriziano dell'associazione, Anna Maria Tomasic, ci spiega le potenzialità dell'iniziativa. I principi base del funzionamento delle CER, cioè delle comunità energetiche rinnovabili, è che famiglie, imprese e istituzioni decidono di collaborare per produrre insieme elettricità rinnovabile di origine locale e aumentare il più possibile la quota di autoconsumo. L'organizzazione della CER, cioè della comunità energetica, si regge sull'accordo tra i suoi membri e sulla disponibilità di un piccolo incentivo che premia la comunità che autoconsuma. Qual è il ruolo di Legambiente nel incentivare e promuovere le comunità energetiche rinnovabili? È quello di promuovere, facilitare ed aiutare questi processi partecipativi comuni. Fa da stimolo alle motivazioni intraprese, promuove incontri fra produttori e consumatori con azioni di sostegno. Ci occupiamo di promozione di tutte le attività che ci chiedono aiuto. siamo comunque a disposizione in questi processi di avvio e siamo in grado di fornire soggetti tecnici che possono aiutare a fare gli studi di prefattibilità e di piani tecnico-economici necessari alla costituzione di una comunità. In regione abbiamo una comunità energetica operativa San Daniele, 30 in tutta Italia, e stiamo aspettando i decreti legislativi per poter fare tante comunità. Cosa vi aspettate come realizzazione dalla comunità che intendete mettere su nel Cormonese? L'ambizione è che le persone, gli imprenditori e i rappresentanti delle istituzioni che parteciperanno alla riunione decidano di aderire alla proposta di comunità energetica. All'incontro seguirà infatti la costituzione di un'associazione che porterà avanti tutti gli aspetti del progetto, che è possibile portare avanti in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi del decreto 199/2021 che oggi disciplina le CER in Italia. Il mondo dei trasporti è un settore in cui è particolarmente difficile avviare il processo sempre più necessario di riduzione delle emissioni di gas serra. Se ne parlerà oggi alle 17.30 nella sala convegni del Museo Michele Gortani di Tolmezzo, nell'incontro La neutralità carbonica per fermare il riscaldamento del pianeta. Sfide, processi ed esperienze industriali nella transizione energetica. Parte del progetto Non scaldiamoci troppo, finanziato dalla Regione. L'appuntamento è promosso dall'impresa sociale Melius. Sentiamo il suo amministratore unico, Maurizio Ion. È un evento divulgativo per mettere al centro dell'attenzione quali sono le azioni, in particolare nel settore dei trasporti, per corrispondere agli obiettivi impegnativi che l'Unione Europea si è data per realizzare la neutralità al 2050, che significa ottenere il 100% di riduzione delle emissioni di CO2, e quelli mediani al 2030, cioè di ottenere attraverso 15 riforme il 55% di riduzione delle emissioni CO2. Concentrarsi sui trasporti vuol dire concentrarsi su una leva fondamentale per ottenere appunto la neutralità carbonica. Proprio nel mondo dei trasporti, quali sono le azioni da fare? In linea generale di tre tipi. Primo, fare in modo che la mobilità sia quanto più possibile sostenibile e realizzare l'intermodalità fra i diversi mezzi di trasporto, in particolare nel campo della movimentazione delle merci. Un secondo asse, intervenire sull'alimentazione dei motori verso le soluzioni elettrico, di gas naturale liquefatto, metano e idrogeno. E infine un terzo asse, più in generale, le innovazioni dei mezzi. Ci sono azioni più specifiche da fare nelle zone come i paesi della Carnia dove si svolge il convegno? Sembra indispensabile usare e avere un mezzo privato? Anche qui la situazione impone di operare su più leve. Innanzitutto, per quanto possibile, operare sul trasporto pubblico locale e quindi fare in maniera che lo stesso trasporto pubblico locale possa cambiare modello organizzativo, in particolare ad esempio attraverso il trasporto flessibile a chiamata. Un secondo asse è quello di utilizzare di più e meglio il carpooling e il car sharing. L'uso consapevole delle nuove tecnologie non solo da parte dei ragazzi ma anche da parte dei genitori è il tema di un convegno organizzato a Udine dall'associazione MEC, Media Educazione Comunità, che metterà a confronto esperti e insegnanti. Il via all'Auditorium Zanon alle 14. Un'anticipazione da Giacomo Trevisan, uno dei fondatori dell'associazione. Quali sono i rischi ma anche le potenzialità delle tecnologie digitali sui più giovani? Parto dalle potenzialità. Le tecnologie digitali, quando sono usate bene, possono essere uno stimolo positivo per le relazioni degli studenti, per i loro approfondimenti didattici o su altri temi, per la loro creatività. Al tempo stesso sappiamo tutti che invece quando non vengono usate bene possono comportare dei rischi. Innanzitutto il più banale è la perdita di tempo, quindi diventare dipendenti dai meccanismi dei social, delle serie TV eccetera, per poi passare a rischi anche più immediati e concreti come incorrere in reati, essere vittima di reati, il cyberbullismo, quindi ferire le altre persone attraverso i comportamenti in rete. E invece come fare per educare i più giovani a un rapporto più consapevole con queste tecnologie, in particolare con lo smartphone? È una domanda che ci facciamo costantemente, perché nel nostro lavoro come associazione MEC noi cerchiamo proprio di sviluppare strategie per accompagnarli da un lato appunto a capire le opportunità, ma dall'altra a riconoscere i rischi della rete e sapere come evitarli. In questo senso il nostro progetto, faccio un esempio, il patentino per lo smartphone, è proprio un esempio concreto. Per aiutare i più giovani occorre anche più consapevolezza da parte degli adulti. Il ruolo degli adulti è fondamentale, più sono giovani è più importante questo ruolo di accompagnamento. Se parliamo di infanzia e di elementari è primario, è fondamentale che siano i genitori a informarsi, magari a partecipare a formazioni come quelle che noi proponiamo, dopodiché dalle medie, soprattutto alle superiori, sempre di più devono essere i ragazzi a essere responsabilizzati in prima persona. Alle 7.42 siamo allo sport, calcio, con l'eliminazione dell'Udinese dalla Coppa Italia per opera del Monza. 3-2 il risultato finale che amareggia Mister Sottil. Ci tenevamo molto a passare il turno, ha detto, e quindi siamo dispiaciuti per essere usciti. Penso che l'impegno e la determinazione non siano mancati. Ecco la cronaca della partita. La prima sconfitta dopo due mesi per l'Udinese significa eliminazione dalla Coppa Italia. Friulani battuti dal Monza di Palladino in gola alla fine del primo tempo dopo aver rischiato più volte di andare in vantaggio. La rete la firma Valotti con un tiro deviato da Isibue. Udinese irriconoscibile sul piano dell'intensità, così nell'intervallo Sottil si fa sentire prima di iniziare la ripresa con Samardžić e Udoji al posto di Jaiolo e De Bosele. La squadra è trasformata, arrivano il gol di Perez e al 23esimo il raddoppio dello stesso difensore argentino su assist di Pereira, ma non è finita perché il Monza si rialza subito grazie ai gol di Molina e di Petagna su azioni che mettono in evidenza una difesa friulana molto disattenta. Altri due pali dell'Udinese condiscono la serata dei rimpianti della squadra di Sottil che alla fine esce battuta dal Friuli. Sentiamo il tecnico Andrea Sottil. Il primo tempo non mi è piaciuto, non siamo stati aggressivi come sempre, non siamo stati intensi, compatti e corti, quindi questo mi dispiace, però può capitare. Insomma, poi secondo tempo la squadra è stata molto più aggressiva, abbiamo cominciato a macinare gioco, a essere più presenti nella metà campo avversaria, cosa che facciamo sempre, e abbiamo recuperato la partita, i ragazzi sono stati bravi a recuperarla. E poi purtroppo due minuti di blackout hanno così, tra virgolette, rovinato la vittoria. Però io e i ragazzi non ho niente da ricriminare, perché si sono impegnati tutti, hanno dato il massimo, hanno spinto fino alla fine, abbiamo preso anche due legni, questo uno clamoroso, quello di Pereira. E quindi accettiamo il verdetto del campo, facciamo i complimenti al Monza, però il rammarico è che la partita l'avevamo in mano noi e lì dovevamo essere più esperti, più attenti nelle letture, che come sempre poi fanno la differenza. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E in Serie C ancora una sconfitta per la Triestina, che però si è difesa con onore in casa contro il Padova. Al Rocco finisce 0-2. Non basta una buona Triestina al Rocco, nell'infrasettimanale passa il Padova condannandogli alla Bardati la terza sconfitta consecutiva, 2-0 per i biancoscudati. Risultato finale per Pavanella ancora 0 punti, anche se sicuramente i passi in avanti si sono visti soprattutto nelle occasioni create, con Donnarumma, fratello del portiere azzurro, a salvare più volte il risultato. Il portiere del Padova si supera al 19esimo, Felici, il migliore per la Triestina, scappa sulla destra, Dorante colpisce ma Donnarumma si salva sulla riga. Gli ospiti passano al 32esimo con un bel colpo da fuori area di Piovanello, con Pissari che si butta in ritardo e il pallone che si insacca nell'angolo alla sua sinistra. Nella ripresa Pavanel cambia qualcosa tatticamente, sale in cattedra Pezzella. Il centrocampista scuola Roma dimostra personalità, anche se a volte tende a strafare. In pochi minuti più volte gli alabardati vanno vicini al pari, al 49esimo con Felici, al 52esimo con lo stesso Pezzella, poi con un'azione solitaria di Lovisa che calcia a lato di poco. Al 64esimo il palo a negare la gioia a Sottini sugli sviluppi di un calcio d'angolo e subito dopo è ancora Pezzella a mancare il bersaglio. La squadra di Pavanel però spende tanto e alla prima occasione il Padova raddoppia, errore della difesa e De Marchi sul filo del fuorigioco punisce. I ritmi rallentano, il morale della Triestina è sotto i tacchi, ma l'Unione non smette di cercare il gol della speranza. Ci provano ancora Ciofani, Pezzella e anche l'ectoplasma Gans nel finale. La squadra alabardata, costruita con ambizioni di promozione, rimane a 7 punti, scivola quindi al terzultimo posto in classifica. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. È sempre in Serie C per il girone A, questo pomeriggio alle 18.30 a Lignano, il Pordenone di Mister Di Carlo ospita il Trento. Iniziamo la nostra rassegna stampa dall'edizione di Udine del Messaggero Veneto che titola sul caro bollette: un artigiano su quattro è a rischio, aumenti medi del 166% con punte del 500. Quattro gestori nel mirino dell'antitrust, una notizia che apre anche le pagine della cronaca locale. Al centro una fotonotizia dedicata a un operaio acrobata sul ponte del Diavolo di Cividale, mentre spazio ancora al tragico incidente sulla 4 con il richiamo a due articoli, il ricordo della moglie del manager morto e un'intervista al presidente di Autovie Venete che dice troppa distrazione, velocità eccessiva. All'interno un articolo dedicato a una decisione del Consiglio regionale, stretta sulle famiglie degli stranieri, centrodestra unito in commissione, passa a maggioranza la proposta leghista che chiede a Roma criteri più severi per i ricongiungimenti familiari. Nelle pagine della cronaca cittadina invece un articolo dedicato alla rissa avvenuta martedì in Borgo Stazione, gli arrestati tutti con precedenti, uno già espulso. In prima pagina del Piccolo di Trieste, il via al cantiere della statua dedicata all'imperatrice d'Austria Maria Teresa, che arriverà a dicembre. Si tratta di un grande tallero. Due le fotonotizie, le storie degli studenti del Collegio del Mondo Unito di Duino, 180 da 80 paesi di tutto il mondo che imparano a unire diverse culture, e la saga dei Tripkovic in un libro. Flussi in aumento dalla rotta balcanica, ingressi cresciuti del 170%, le richieste del rione di San Giacomo per quanto riguarda lo sport e la viabilità, e la procura generale che smonta la sentenza che assolve Meran, 7. Infine la bagarre nell'aula del Consiglio Comunale di Muggia su Marco Cavallo. Nessuno sfratto, un atto dovuto, spiega il sindaco Polidori. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre con il caso criptovalute. 4.000 clienti, raccolti 100 milioni, il PM, dagli interrogatori le prime ammissioni. Spazio poi a una notizia di cronaca, l'incidente con la moto da cross, un uomo in gravi condizioni, un richiamo anche a un servizio sui temi dell'energia, impianti solari tra pericolo di inflazione e problemi tecnici. Nelle pagine economiche un articolo fa il punto sulla crisi dell'azienda di costruzioni Cimolai, che oggi approda in tribunale. Si ipotizzano due strade, ristrutturazione del debito o concordato in bianco, mentre proseguono le trattative per la ricapitalizzazione. L'apertura delle pagine della cronaca cittadina è dedicata invece alla scuola. Non si trovano professori per alcune materie, annunci sulle bacheche di lavoro. Sono richiesti laureati informatici e ingegneri meccanici. In forte sofferenza in provincia anche il settore del sostegno. Il Piccolo di Gorizia ha in prima pagina la fotonotizia di Gorizia a Nova Gorizia, capitale della cultura nel 2025, un evento di respiro internazionale che prevede l'assessore regionale alla cultura Gibelli farà arrivare 3 milioni di visitatori. La regione deve fare rete, esorta l'assessora. Altri furti nelle case in tutto l'Isontino, 11 gli ultimi colpi messi a segno tra mossa e gradisca, l'appello del questore di Gorizia, Gropuzzo, alla cittadinanza affinché segnali la presenza di persone autosospette. Poi c'è spazio per l'anniversario dei 3 anni da quando l'acqua alta aveva invaso Grado e ora è stato effettuato il sorteggio per il controllo a campione sulle dichiarazioni dei primi beneficiari. A Cormons, doppio cantiere, una volta concluso l'intervento di risacqua sui sottoservizi che risalgono all'800, il comune completerà la strada con un impegno di spesa di 18.000 euro. Il Gazzettino apre le sue pagine di Pordenone con la sanità, 2 anni per operarsi di cataratta. Anche con le strutture private convenzionate i tempi restano lunghi. Per lo stesso intervento in Veneto si aspetta 2 mesi. Al centro spazio poi al lavoro. 1 milione di ore di cassa integrazione, ma pochi la usano. Impennata delle richieste dalle aziende, l'effetto panico che traina il pessimismo. Una fotonotizia dedicata poi ai cellulari in classe. Le scuole si difendono. Gran parte degli istituti hanno dato un giro di vita i regolamenti rendendoli più duri nei confronti di chi li accende. All'interno un articolo spiega che a Pordenone salta la comunità energetica in fiera, nuovo progetto con Idrogea e ATAP. Mancano i controlli sul tetto del polo di Viale Treviso, il comune svolta verso il parcheggio dietro al centro commerciale Meduna. Anche le pagine di Udine del Gazzettino titolano sulle liste d'attesa della sanità, dedicando poi spazio al ricordo del manager morto nell'incidente in autostrada e in una fotonotizia alla sconfitta dell'Udinese. Oggi 20 ottobre si celebra la giornata mondiale dell'osteoporosi. Nell'occasione l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere promuove la 7ª edizione dell'Open Day dedicato alla salute delle ossa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Le oltre 100 strutture ospedaliere del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all'iniziativa offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, tra cui visite endocrinologiche e reumatologiche, counseling psicologico, esami e prelievi, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale informativo. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.bollinirosa.it. Un altro appuntamento, un evento per illustrare a studenti e docenti gli effetti del cambiamento climatico, proponendo loro l'adozione di comportamenti che possano aiutare a contrastarlo. Si intitola Il clima del futuro e il futuro del clima. Inizierà alle 8:30 al Cinema Ariston di Trieste. Un convegno nazionale sul tema del lavoro che mette a confronto esponenti del mondo della ricerca, della salute, del settore pubblico e di quello privato, della cooperazione e dell'associazionismo. È quello che prende il via oggi alle 9, per concludersi domenica, nel Teatro Franca e Franco Basaglia del Parco di San Giovanni a Trieste. Fare il punto sulle priorità infrastrutturali necessarie per il sistema economico del Friuli Venezia Giulia è il focus del convegno organizzato dalle due Camere di Commercio regionale e Union Trasporti. Inizio alle 9:30 nella sede della Camera di Commercio della Venezia Giulia a Trieste. Amianto, come affrontarlo? Se ne parlerà in un seminario didattico organizzato dall'Istituto Tecnico Volta di Trieste per questa mattina alle 10. Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine compie 25 anni. Per festeggiarlo è uscito un volume, Il Teatro e la sua città, che racconta questo quarto di secolo attraverso i punti di vista di chi il teatro lo ha conosciuto, frequentato e vissuto. Il libro sarà presentato alle 17:30 nella sede dello Stabile Udinese. Il mondo della vendita e della tecnologia si confrontano per parlarci di un futuro che riguarda tutti da vicino, che intende trasformare l'economia del prodotto in economia dei servizi. Come il progresso delle tecnologie digitali cambia anche il modo di vendere prodotti e servizi? In che modo lo illustrerà l'incontro Digital Transformation nelle vendite che si svolgerà alle 17:30 al Polo Tecnologico di Pordenone? Scoprire storie e bellezze della Basilica Patriarcale di Aquileia sarà possibile questa sera con una passeggiata aperta a tutti e guidata dallo storico Angelo Floramo, dal poeta Carlo Celan e da Andrea Bellavite, direttore della Società per la Conservazione della Basilica. L'appuntamento è alle 18. Nasceva 100 anni fa l'astrofisica Margherita Hack, che ha legato indissolubilmente la sua attività all'Osservatorio di Trieste. A omaggiarla, in un incontro alle 18 al Caffè San Marco, gli astrofisici Steno Ferluga e Juan Vladilo, moderati da Enrico Smargiassi del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze del Friuli Venezia Giulia. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano alle 11:20 circa l'appuntamento con Anziani, anzi no, spazio oggi ad un'associazione di volontariato di Trieste, le Buone Pratiche Onlus, che quest'anno amplia ulteriormente il suo lavoro di scambio intergenerazionale giovani-anziani. Alle 11:55 andrà poi in onda Annestato nel mercato. Parleremo di impresa sociale grazie ad un convegno che prenderà il via questa mattina al Parco di San Giovanni a Trieste. Inoltre conosceremo le diverse attività della CISILE, cooperativa sociale isontina, che opera dal 1988 in diversi campi. I programmi regionali tornano poi alle 13:30 circa. Ed è tutto per questo giornale radio, in regia Viola Romanese e Paolo Cassano, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Daniele Lettig ed Elisabetta Zaccolo l'augurio di una buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.